Dimmi, figliolo. Speliguda venia con la supercacciara brevaturata. Come, figliolo? Confesso, come fosse un cane col scappellamento. Ostinato a maliti. Quante volte, figliolo? Fissi. Ma sì, come fosse mia colpa. Supercazzi. Io ti assolvo dai tuoi peccati. Almost like a guy. Dalla Svezia erano questi i Carnation, un ritorno per quanto riguarda le playlist di Eclettica. Non è che mai siano comparsi, ci siano rimasti a lungo, ma ogni tanto una capatina, un ciao ciao, lo facevano. Dalla Svezia, anche se incidono per la tedesca Sounds of Subterranea, per cui è uscito il nuovo Human Universal, dal quale ci siamo ascoltati Jesus Saves, dalla New Wave delle origini, sono passati su un fronte più elettronico, si sono dotati di sintetizzatori d'epoca, ovviamente. Sono andati a cogliere groove dance che prima non gli erano propri e quindi hanno creato questa nuova musica che è entrata di diritto nelle playlist di Eclettica, e forse questa ci rimarrà più di un ciao ciao. E invece in apertura Aaron Stout, questo è il nome dell'artista statunitense che però si presenta con lo pseudonimo di Queens Living Caskets, un album che esce per la Monotram Records, dal quale ci siamo ascoltati in apertura di terza parte di Eclettica The Coronation, e questo è il titolo del brano. In mezzo, come al solito, amici miei, a tenerci compagnia, una confessione che mi sembrava ci stesse proprio bene prima del brano intitolato Jesus Saves. Dopo esserci ascoltati un artista statunitense e degli artisti svedesi che incidono per un'etichetta tedesca, ora è la volta di artisti tedeschi che incidono per un'etichetta statunitense, quella di Mike Patton, la Ipecac Recordings. Loro sono i Mouse on Mars, dall'ultimo Warschwarz, ci ascoltiamo Chart Knock. times when you talk about your life as you live it out, your eyes want to scream and shower at lies that were given out, and you Ramona Cordova, che esce per quanto riguarda l'Italia, grazie a Sleeping Star, ce ne siamo accorti un po' in ritardo, qua in Italia, eclettica compresa, di lui, di Ramona Cordova, ma direi che stiamo recuperando al meglio il tempo. The Boy Who Floated Freely, questo è il titolo dell'album di 11 tracce, un vero e proprio album a tema, un concept album che parla di Giver, ragazzo che scappa di casa e si trova su un'isola deserta. Non vi racconto tutta la storia, su internet sarà facile per voi recuperare i dettagli nel caso vi interessino. Giver's Reply, appunto, il titolo del brano che ci siamo ascoltati quest'oggi in eclettica, e non è un concept album, ma il tema è sempre quello che invece ci stiamo per ascoltare. Per la Secretly Canadian, a nome Catfish Heaven, è un trio capitanato da George Hunter, un album pieno di soul in cui tutte le canzoni trattano lo stesso tema: il dolore, la disperazione, la confusione legata al fatto di essere stato lasciato dalla sua donna. 10 tracce monotematiche. Crazy for Living è la numero 3. I should. Crazy for Living è il brano che ha quasi chiuso la terza parte di Eclettica in compagnia di Giulio Gabberdoni. Vi ricordo la disponibilità in questa nuova stagione anche via satellite grazie alla piattaforma di Sky, sul sito di Rock FM o anche su myspace.com/eclettica trovate le informazioni su come recuperare il canale. Ma vi ricordo la disponibilità di questa trasmissione, sembra essere il modo più gradito dalla maggior parte di voi in podcasting. Si chiude con Israele, Magic Surf Guitars from Tel Aviv, kicked by tuba and drums on an ecstatic Mediterranean spicy Balkan trip. È questo che dicono della loro musica come sottotitolo dell'album prodotto da Chantel, gli israeliani Boom Bap. E come vi dicevo, con questo brano, con questa canzone da matrimonio, si chiude Eclettica, Wedding Song. Eclettica, fine della terza parte.